La vita in un film di Franco D'Assisi. Questa è l'unica epoca nella storia dell'umanità in cui c'è gente che torna in Molise. Avete presente quei giovani non più così giovani di cui ogni tanto parlano in TV scuotendo la testa con rassegnazione? Sai cosa pensavo? Ecco, quei giovani sono io. Per l'affitto ci dà 15 giorni di proroga. Ah, ma gliel'hai detto del pavimento? Ma sei scemo. Mi cacciano. Ma te l'hanno già detto? No, ma fossi loro, guarda, mi caccerei anch'io. Sì, però la regola era niente donne. E i soldi? Questa sta peggio di noi. A 400 euro al mese il riscaldamento e le bollette da dividere per tre. Lo so. Te chi sei, il genio della matematica o quello che gioca da solo alla PlayStation? No! Devi smetterla di essere sempre insicuro su tutto, vado di qua, vado di là. Arrivi a un certo punto che devi darti delle risposte, no? Ma lo stai chiedendo a me? Questa è l'unica epoca della storia in cui i figli stanno peggio dei padri. E la nostra risposta qual è? Mangiare sushi? Buonasera da Franco D'Assisi e ben ritrovati a La vita in un film. Radio 24 tutte le sere vi racconta un film, ve lo propone, vi chiede di identificarvi, di capire se c'è qualcosa della vostra vita in quel film o in un altro film che abbia raccontato più o meno lo stesso tema o la stessa storia. Questa sera avete sentito la clip tratta dal film Generazione 1000 euro di Massimo Venier, uno dei film più interessanti anche sotto un certo profilo di questa generazione italiana, usciti durante la scorsa stagione cinematografica, perché oggi parliamo proprio di questa generazione che è ben fotografata dal titolo Generazione 1000 euro. Avremmo potuto chiamare questa puntata vita da precari o vite precarie, perché è questo un po' il tema che vogliamo affrontare. Già abbiamo parlato durante una puntata precedente della vita in un film di trentenni, ma lo abbiamo fatto raccontando trentenni sottovalutati dalla società, trentenni che l'Italia non merita. Questa volta vogliamo invece parlare proprio di questo senso di precarietà, di questo senso di una mancanza di un orizzonte che attanaglia molti dei giovani che stanno appunto attorno ai 30 anni, poco più o poco meno. E Generazione 1000 euro di Massimo Venier è uno dei film che ha raccontato un pochino questo clima e che avete anche percepito in maniera ironica dalla nostra clip. 800 24 00 24, come sempre il numero verde di Radio 24 per intervenire in diretta qui alla vita in un film e raccontarci, soprattutto se avete circa 30 anni e volete appunto svelarci quali sono i film in cui avete visto un pezzo appunto di questa situazione così appunto un po' altalenante che è la precarietà. Di quel film di Generazione 1000 euro abbiamo anche un ospite che è Carolina Crescentini, una delle attrici italiane più in vista della sua generazione, più richiesta non solo in Italia ma anche all'estero. Sta lavorando tantissimo, ma anche lei per un certo periodo all'inizio si è sentita, lo ha detto in qualche intervista, si è sentita un po' precaria, e poi mestiere più precario di quello dell'attore forse davvero non c'è, perché è un mestiere nel quale ovviamente affermarsi e avere fra virgolette la sicurezza, beh, forse non ci si riesce davvero, davvero mai. Allora, cominciamo con il sentire Carolina Crescentini per introdurre anche meglio questo tema appunto della generazione 1000 euro. In quale film avete visto un pezzo di queste sofferenze per arrivare alla cosiddetta e benedetta serenità, tranquillità, sicurezza, che è un po' la parola diventata magica, quasi una chimera di questa generazione? 800 24 00 24 il numero di telefono, e vi ricordo che ci sono qui ad aspettarvi numerosi biglietti per andare al cinema nel corso della prossima stagione. Cominciamo ad ascoltare quindi Carolina Crescentini, che ha partecipato a film abbastanza rappresentativi di questa condizione delle nuove generazioni tra ambizioni e disillusioni. Notte prima degli esami, per esempio, Notte prima degli esami oggi nel suo caso, e appunto Generazione 1000 euro. Allora sentiamo su questo tema, sul connubio fra questi due film, Carolina Crescentini. Notte prima degli esami erano appena usciti dal liceo, quindi erano pieni di sogni. Generazione 1000 euro, di scontri con la realtà, e i sogni diventano un pochino meno. Però più che altro è l'impatto col mondo del lavoro, che è abbastanza schiacciante, quello che racconta Generazione 1000 euro. E quindi l'impatto con il mondo del lavoro, perché? Perché il mondo del lavoro è quello che poi fa un po' da discriminante, no? Si può tergiversare finché si vuole, quando si arriva poi davanti a quel punto il concetto di precarietà diventa qualcosa di drammaticamente normale e tangibile anche. 800 24 00 24, il numero verde della nostra emittente per partecipare a La vita in un film. Dicevamo, ci sono stati parecchi film quest'anno che hanno trattato, quest'anno o negli anni più recenti, che hanno trattato appunto questo tema, quasi sempre, devo dire, con un taglio ironico, che è poi la cosa migliore ovviamente. Ce ne fu uno anche di qualche anno fa che si intitolava Santa Maradona, lo ricorderete, un film che raccontava di un ragazzo che vive a Torino, si è appena laureato e anche lui passava già 8 anni fa da un colloquio all'altro alla ricerca di una strada da percorrere, e quando la strada arriva poi lui forse non si sente pronto. Allora cominciamo a sentire una piccola clip di Santa Maradona. Adesso vado, perché è l'ultima possibilità, dopodiché box doccia. Interessi, computer, cinema, calcio, musica, leggere. Io uno come lei l'assumerei solo per il gusto di licenziarlo subito dopo. E io lavorerei per uno come lei solo per mandarle a puttana l'azienda nel più breve tempo possibile. Ah, sei un cafone, giovanotto. Però hai carattere. Andrea Straniero. Un tempo ti avrei detto di uscirtene di qui con dignità. Ma sono curioso di vedere uno come te all'opera in un posto come questo. Mi stai dicendo che sono assunto? Non scherziamo. Medicina dovevamo fare. Abbiamo studiato. Ci siamo fatti il mazzo per diventare persone serie, anche con un certo spessore, ma lettere non serve un cazzo. E questo era appunto Stefano Accorsi in Santa Maradona. Noi sentiamo ancora Carolina Crescentini, la protagonista, una delle protagoniste di Generazione 1000 Euro. È la paura di non avere un lavoro o di guadagni adeguati, non avere guadagni adeguati a limitare un po' questa generazione, o si tratta piuttosto in certi momenti di un alibi? Un po' sì, un po' può essere autolimitante, un po' allo stesso tempo tra dei compensi insomma non sempre, diciamo, abbastanza ridicoli, dei contratti abbastanza ridicoli e delle assenze di basi per costruire, a volte ti senti un po' schiacciato e quindi ti limitano, non è che ti autolimiti. Cosa manca maggiormente a questa generazione 1000 euro? Un futuro, una prospettiva, la sicurezza, i soldi? Cosa senti tu, che magari appunto ce l'hai fatta nel tuo settore? Cosa senti come mancante? È completamente diverso, però quando mi confronto con le mie amiche manca la possibilità di costruire, perché è tutto così temporaneo, no? Tutto a 6 mesi, però costruire è un'altra cosa. Il problema non è oggi, il problema sarà domani. Oggi ci arrabattiamo, ci inventiamo un lavoro, qualcosa, io ho fatto la barista per una vita, qualcosa ti inventi, però il problema è quando deciderai di avere dei bambini, magari una famiglia e tutto. La vita in un film. Dora, il tuo problema non sono io, il tuo problema non è un contratto di lavoro decente, il tuo problema è che sei stagista qui, nella testolina. Rancalegli è come il nostro paese, lei vuole farsi i suoi bisogni senza calarsi le brache. No, non sono nel mio ufficio in questo momento. Mi serve il computer. Un attimino, Se ti chiedo il computer, disconnetti l'utenza. Noi della Manus Power riteniamo fondamentale che lei si attenga alle nostre regole. Lei non può trattenermi per l'eternità. Posso. Può. E questa era una clip di Il Vangelo secondo Precario, film di un circuito, diciamo così, underground, che però ha fatto davvero un notevole giro, anche mediatico, durante questa stagione, ed è diretto da Stefano Obino, che è in collegamento qui alla Vita in un Film. Ciao Stefano! Ciao. Benvenuto alla Vita in un Film qui su Radio 24. E allora, io ti chiedo di stare qua con noi, così magari cominciamo già a sentire qualche telefonata degli ascoltatori, perché magari gli spunti per le risposte poi potremo girarli anche a Stefano Bino. C'è Francesco in linea dalla provincia di Cuneo. Buonasera Francesco. Buonasera. Allora, in quale film ha visto un po' di questo senso di precarietà, magari lo ha sentito suo? In un film di tanti anni fa, che forse hanno visto in pochi, che si chiama, il titolo è Lontano da dove? È un film di un gruppo di ragazzi che vive a New York, un gruppo di ragazzi italiani che vive a New York, che sono alla fine un gruppo di persone abbastanza spostate, nel quale a una domanda precisa che viene fatta, una battuta che mi ricordo del film, che lavoro fate? Una ragazza risponde, ma sai, noi vediamo gente, facciamo cose. Questa è una riflessione che trovo abbastanza nel mondo di adesso, fra i ragazzi che lavorano, tutti questi lavori precari che li portano a fare numerose esperienze senza mai fare tesoro di un'esperienza definitiva o comunque formativa nella loro esistenza. E quindi sono gente che vede gente e fa cose. Francesco, grazie per averci chiamato. E a lei va un cofanetto Wazoo, 5 serate di grande cinema con tante possibilità di godersi alcuni dei film più belli della prossima stagione. Per essere stato il primo ad avere chiamato l'800 24 00 24, ma c'è ancora qualche biglietto qui per i prossimi ascoltatori. Però mi interessa quello che lei ha detto e soprattutto il film che ha scelto, perché è Lontano da dove, un film del 1983, cioè ci avviciniamo quasi ai 30 anni. Stefano Bino, tu eri nato nel 1983? Sì, ma avevo 6 anni. Ecco, da pochi anni. Questo ci fa pensare, Stefano, che tutto sommato questo tema della precarietà non è poi così nuovo. No, beh, ma infatti noi quando giravamo il film, mi ricordo, siccome era basato anche su esperienze reali che avevamo chiesto di mandarci al sito, molto spesso chi ci scriveva era anche persone molto più grandi di noi, che all'epoca avevamo 27-28 anni, e ci parlavano di un precariato reiterato negli anni anche precedenti alle nostre esperienze, insomma. Quindi insomma, ecco, c'è da pescare un po', e anche tra l'altro devo dire nei film più recenti, da Santa Maradona di Marco Ponti del 2001 al tuo film del 2009, sono passati 8 anni, ma insomma siamo sempre lì, questa età è un po' critica. Allora ti chiedo, Stefano, non è che è proprio l'età, non è che è proprio questo momento di passaggio che si è spostato in avanti e che forse anche i nostri genitori vivevano, ma magari lo vivevano a 15 anni, a 17, a 18, a 20, voi soprattutto lo vivete magari a 30, 32, 33, ecco, non può essere che questa asticella si sia spostata, ma appunto il tema evidentemente c'è e c'era e ci sarà? Ma sinceramente no, non credo, nel senso credo che gli anni 60, 70 avessero portato delle conquiste sul tema del lavoro abbastanza evidenti, che piano piano sono state smantellate, se si vuole anche per una modernizzazione del mercato del lavoro, che però poi in sostanza ha lasciato molti giovani senza nessun tipo di tutela, né dal punto di vista del contratto di lavoro, né dal punto di vista di quello che dovrebbe essere il famoso welfare, quindi in qualche modo un sostegno anche dal punto di vista statale. Il sostegno diventa la famiglia, con situazioni abbastanza anche tristi e imbarazzanti spesso. Allora noi ascoltiamo Marco da Milano, che è in collegamento qui all'800 24 00 24. Buonasera Marco. Ma buonasera a tutti quanti. Buonasera anche a lei. Allora, quali film l'hanno fatta un po' riflettere? Beh, intanto io 30 anni li ho passati da un po', per cui mi ricordo Eccebombo. E beh. E più recente direi Radio Freccia. Certo, anche in quel caso sì, diciamo che c'è una precarietà della vita più che del lavoro forse, no? In quel caso. Mi riconosco proprio in questo, precarietà della vita, vedi anche al femminile Thelma e Louise. Certo, però ecco, forse lì ci discostiamo un pochino dalla... Era così un flash, mi era venuto in mente. Però Eccebombo è un altro di quelle riflessioni interessanti, perché anche lì c'è una generazione che doveva essere quella dell'impegno, del coinvolgimento politico. Ricordiamo Eccebombo del 1978 e racconta quel taglio e quella generazione con un giovanissimo Nanni Moretti. Però anche lì, ecco, questo senso di precarietà che forse non era dato dai contratti a tempo determinato o dai contratti a progetto, ma era dato così da una società che non si vedeva cambiare probabilmente, però è ancora una componente di queste vite precarie che stiamo cercando di raccontare questa sera qui alla Vita in un Film. Grazie a Marco da Milano, 2 biglietti per il cinema anche per lui, e abbiamo un altro ascoltatore, Gennaro da Bologna. Buonasera Gennaro. Buonasera, salve. Allora, ci dica un po'. Allora, io i flash che ho avuto sono riguardo un film con Mastandrea, di una ragazza che lavorava in un call center precario, come precaria, e che fa una vita molto difficile da questo punto di vista. E un altro flash invece è il lavoro violento, tra virgolette, purtroppo non ricordo il titolo del film, è un film che ho visto qualche anno fa, in cui c'era all'interno di un'azienda un lavoratore a cui viene dato un compito di grande responsabilità, licenziate. Ah, forse si riferisce a Volevo solo dormirle addosso. con Giorgio Pasotti, sì, lì c'è questa figura del tagliatore di teste che insomma fa sentire precari gli altri più che altro, più esatto. che se stesso, ecco. Esatto. E quelli che licenzia non sono certo trentenni, sono quasi tutte persone di una certa età. No, infatti. Però ecco, lui ha questa, con questa promozione, che è una parte, diciamo, violenta del lavoro. Lui ha un lavoro sicuro ed è un lavoro violento. D'altra parte, invece, nell'altro film c'è una ragazza con un lavoro non violento, però precario. Ecco, questi sono i flash che ho avuto, anche in funzione dell'esperienza che ho passato. Oggi, diciamo, sono fortunato, tra virgolette, però... oggi io mi trovo ad essere al nord, a Bologna, però sono meridionale, però ecco, con un lavoro non precario, però che va poco sopra. Certo, i livelli, gli standard di resistenza umana. Grazie Gennaro da Bologna, due biglietti anche per lei. Io richiamo in causa Stefano Obino, il regista del Vangelo secondo Precario, titolo tra l'altro strepitoso. Stefano, come si resiste in un'epoca precaria come questa? Questa è una domanda da 100 miliardi, io sinceramente non so rispondere, so che alla fine tutti comunque continuano ad andare avanti e a cercare di lottare per non perdere quello che hanno in quel momento, però è veramente difficile, sinceramente non saprei cosa dirti. Beh, per esempio la tua esperienza personale o quella delle persone che conosci più da vicino, cioè c'è un assetto mentale che bisogna assumere per cercare di non farsi travolgere anche dall'ansia che oggettivamente emerge e viene generata da questa situazione, appunto, di tempi che sono sempre di pochi mesi, progetti che non possono andare oltre qualche mese o al massimo un anno. Ecco, per la tua esperienza o per l'esperienza di chi ti sta vicino, come bisogna porsi rispetto a questa cosa? Molto individualistica come situazione, ma puntare su se stessi, cioè secondo me continuare a credere che comunque si è qualcosa di importante anche singolarmente e non smettere mai di credere in questa cosa qua, e quindi in questo modo, puntando su se stessi, fare in modo che queste tante interruzioni divengano tappe di un percorso individuale molto più netto, insomma, e quindi... Questa cosa ha un lato positivo che costringe anche forse in qualche modo a chiedersi di più chi si è e dove si vuole andare, e questo è un punto importante secondo me per andare avanti, ecco. Perché come dice il sottotitolo del tuo film, il lavoro mobilita l'uomo. Grazie a Stefano Vino, regista del Vangelo secondo Precario. Grazie a voi, ciao. E noi andiamo avanti perché ci sono altri ascoltatori che aspettano di poter intervenire. Per esempio Simone da Roma. Buonasera Simone. Buonasera, voglio portare la mia testimonianza. Prego. Io chiamo da Roma, ho 35 anni e non più precario da un paio di anni. Beh, meno male, dai. Sì, ho optato per l'estero subito dopo... Ah, ecco, questa è la chiave. Ah, peccato, è andata via la linea con Simone da Roma che ci stava raccontando che appunto è stata l'estero, è stato il trasferirsi. Questo era un tema che era venuto fuori anche già nella puntata sui trentenni. Era stato il trasferirsi, la chiave per uscire dalla precarietà. Questo ovviamente, beh, fortunatamente non è sempre così, ma non è sicuramente positivo, è un dato che così, con cui l'Italia deve fare i conti. C'è un sms anche al 349-238-6666 che ci cita, e Sandro da Pordenone cita The Wrestler come film appunto su una esistenza precaria. Beh, quella certo è molto particolare, è l'esistenza precaria appunto di Mickey Rourke nei panni di questo wrestler un po' in disuso, ma forse lì è una precarietà in assoluto, non è certo dettata dal mondo del lavoro e dalla società. Abbiamo ancora un minuto in trasmissione, forse abbiamo recuperato l'ascoltatore da Roma che era andato via prima perché era caduta la linea. Eccoci qua. Sì, Simone. Simone, beh, scusami ma non avevo più il tuo nome sotto occhio. Allora Simone, brevemente dicevamo la chiave è stata andare via, andare all'estero. Imparare le lingue, è stata la chiave di volta. Quindi imparare le lingue, possiamo dire che è l'invito che facciamo a questo punto a tutti i giovani che ancora devono entrare nella famosa decade tra i 20 e i 30 e che quindi si preparassero, perché la precarietà, abbiamo visto in questa puntata della Vita in un film, esiste a tutte le latitudini, esiste in tutte le epoche e il film, il cinema lo ha dimostrato. Forse imparare le lingue può essere una chiave per uscirne. Grazie per averci seguito alla Vita in un film, appuntamento domani sera qui su Radio 24 alle 18. Un saluto da Franco D'Assisti.